Il terzo anello, ad alta voce. Luciano Virgilio legge La cripta dei Cappuccini di Joseph Roth, traduzione di Laura Terreni. Czojnicki sedeva nel suo vecchio salone, nella sua vecchia casa. Era quasi irriconoscibile perché si era fatto tagliare i baffi. Perché? A che scopo? Chiesi. Per somigliare al mio domestico. Io sono il lacchè di me stesso. Mi apro da solo la porta, mi pulisco da me gli stivali. Quando ho bisogno di qualcosa, suono e mi presento io stesso. Signor Conte comanda? Sigarette. Al che mi spedisco dal tabaccaio. Mangiare posso ancora farlo gratis dalla vecchia. Con questo nome si intendeva nella nostra cerchia la signora Sacher. Il vino me lo procuro ancora dal grassone. Con questo nome si intendeva nella nostra cerchia il Lautgartner a Itzking. Exandal è pazzo a Steinhof. Così concluse Czojnicki il suo triste resoconto. Pazzo? Pazzo da legare. Gli faccio visita tutte le settimane. Il coccodrillo era lo zio dei fratelli Czojnicki, Sapieha. Ha messo i beni sotto sequestro. È il curatore di Xandel. Io non ho alcun diritto di fare opposizione. Questa casa è pignorata. Posso restarci ancora 3 settimane. E tu, Trotta? Io metterò un'ipoteca sulla nostra casa. Mi sono sposato, sai? Devo mantenere una moglie. Oh, sposato, esclamò Czojnicki. Ne so qualcosa anch'io. Ma mia moglie è in Polonia. Che Dio ve la conservi a lungo e in salute. Io ho deciso, continuò, di rimettere tutto nelle mani dell'Onnipotente. Chi ha imbrattato, spazzi. Lui mi ha messo in questo bel pasticcio, in questo sfacelo, e io mi rifiuto di tirarmi fuori. Tacque per un po', poi picchiò il pugno sul tavolo gridando «La colpa è tutta vostra! Di voi! Voi!» Cercava il termine appropriato. «Voi canaglie!» gli venne finalmente in mente. «Voi avete rovinato lo Stato con le vostre frivole barzellette da caffè! Il mio Xander l'ha sempre profetizzato!» Voi non avete voluto vedere che quegli scimuniti di alpigiani e i sudeti della Boemia, questi nibelunghi cretini, hanno offeso e infamato per tanto tempo le nostre nazionalità finché hanno cominciato a odiare e a tradire la monarchia. Non sono stati i nostri cechi a tradire, non i nostri serbi, non i nostri polacchi, non i nostri ruteni, ma soltanto i nostri tedeschi, la maggioranza etnica. Ma la mia famiglia è slovena, dissi. Scusa, disse sottovoce. È solo perché non ho un tedesco sotto mano. A me un tedesco dei sudeti, gridò di nuovo all'improvviso, che io lo strozzi. Andiamo, andiamo a scovarlo. Vieni, marciamo sul Josefinum. Wozzeck, Szczecin, Allensberg, Lichtental e Strohofer erano là, per lo più ancora in uniforme. Tutti loro appartenevano alla vecchia società. I titoli nobiliari erano proibiti, che importava? Chi non mi conosce col nome di battesimo, diceva Szczecin, non ha avuto una buona educazione. Erano instancabili nel giocare a scacchi. Dov'è il Sudeta? Gridò Czojnicki. Son qua, disse il Sudeta. Papa Kunz era uno di quelli che assistevano alle partite prodigando i loro fastidiosi consigli. Vecchio socialdemocratico, redattore dell'organo di partito, era disposto in qualsiasi momento a provare storicamente che gli austriaci erano in realtà tedeschi. «Lo provi!» esclamò Szczecin. Papa Kunz ordinò un doppio slivovitz e si accinse a provarlo. Nessuno gli prestava ascolto. «Iddio fulmini i sudeti!» urlò Czojnicki, che aveva appena perso una partita. Saltò su di scatto e agitando in aria i pugni chiusi, si slanciò sul vecchio Kunz. Lo fermammo. Aveva la bava alla bocca e gli occhi iniettati di sangue. «Marcomanni, teste quadre!» gridò finalmente. Era l'apice del suo furore. Da quel momento cominciò visibilmente a rabbonirsi. Mi sentivo bene. Ero di nuovo a casa. Tutti noi avevamo perso rango, posizione, nome, casa e denaro e valori, passato, presente, futuro. Ogni mattina, quando aprivamo gli occhi, ogni notte, quando ci mettavamo a dormire, imprecavamo alla morte che invano ci aveva attirato alla sua grandiosa festa. E ognuno di noi invidiava i caduti. Riposavano sottoterra, e la primavera ventura, dalle loro ossa, sarebbero nate le violette. Noi invece eravamo tornati a casa disperatamente sterili, coi lombi fiaccati, una generazione votata alla morte che la morte aveva sdegnato. Il reperto della commissione di arruolamento era irrevocabile. Diceva: giudicati inabili alla morte. L'inconsueto divenne per tutti noi la consuetudine. Era un precipitoso assuefarsi. Quasi senza saperlo, ci adeguavamo con la più grande sollecitudine. Anzi, correvamo dietro a fenomeni che odiavamo e aborrivamo. Cominciammo addirittura ad amare la nostra disperazione come si amano dei nemici sinceri. Anzi, ci sprofondavamo dentro. Le eravamo grati perché inghiottiva i nostri piccoli affanni personali. Lei, la loro sorella maggiore, la grande disperazione, che in vero non cedeva nessun conforto, ma nemmeno a nessuna delle nostre preoccupazioni quotidiane. Secondo me, si capirebbe, e certo si perdonerebbe, anche la spaventosa rendevolezza delle odierne generazioni di fronte ai loro ancor più spaventevoli asservitori, se si pensasse che è della natura umana preferire la grandiosa sciagura che tutto distrugge all'affanno particolare. L'immane sciagura inghiotte rapidamente la piccola disgrazia, la disdetta, insomma. E perciò, in quegli anni, noi amavamo l'immane disperazione. Oh, non che non fossimo stati in grado di mettere in salvo da essa anche qualche piccola gioia, di comprargliela, di ottenerla con le lusinghe, di strappargliela con la forza. Scherzavamo e ridevamo spesso. Spendevamo del denaro che a malapena ci apparteneva ancora, ma che pure a malapena aveva ancora un valore. Si dava a credito e si prendeva a credito. Accettavamo doni e ne facevamo. Restavamo debitori e pagavamo debiti altrui. Così vivranno gli uomini il giorno prima del giudizio universale, succhiando nettare dai fiori velenosi, lodando il sole che si spegne come dispensatore di vita, baciando la terra che si dissecca come madre della fertilità. Si avvicinava la primavera viennese, alla quale nessuna delle piagnucolose canzonette poté mai rendere giustizia. Non una sola delle melodie divenute popolari ha la tenerezza del canto di un merlo nel Votive Park o nel Volksgarten. Nessuna canzone in rima è così efficace come il buon grido rozzo e roco di un banditore davanti a una baracchina del Prater in aprile. Chi può cantare l'oro guardingo del Citiso che invano tenta di nascondersi fra il verde tenero dei vicini cespugli? Già si avvicinava l'incantevole profumo del Sambuco, promessa festosa. Nel Wienerwald occhieggiavano azzurre le violette. Gli uomini si accoppiavano. Nel nostro solito caffè si scherzava, si giocava a scacchi e a dardel e a tarocchi. Si perdeva e si vinceva denaro senza valore. Mia madre dava tanta importanza alla primavera che a cominciare dal 15 aprile andava due volte al mese al prater, non solo una volta come in inverno. Ormai erano pochi i fiaccheri, i cavalli morivano di vecchiaia, molti venivano macellati e mangiati come salsicce. Nelle rimesse del vecchio esercito si potevano vedere i pezzi dei fiaccheri distrutti. Mia madre, che previdente per natura con l'età lo era diventata ancora di più, aveva fatto un accordo con uno dei pochi vetturini rimasti. Veniva puntuale due volte al mese alle 9 di mattina. Qualche volta io accompagnavo mia madre, specialmente nei giorni in cui pioveva. Nelle intemperie, e un'acquata per lei era già tale, non voleva essere sola. Non parlavamo molto nella quieta benigna penombra sotto il mantice aperto. «Signor Xaver», diceva mia madre al vetturino, «mi racconti qualcosa?» Egli si girava verso di noi, faceva trottare i cavalli un paio di minuti e raccontava un po' di tutto. Suo figlio era uno studioso, reduce di guerra, comunista attivo. «Mio figlio dice», raccontava il signor Xaver, «che il capitalismo è spacciato. Non mi dice più babbo, mi dice carrozza, eccellenza? È un ragazzo di cervello, sa quel che vuole. Dei miei cavalli non ne capisce nulla». Mia madre chiese se anche lei era una capitalista. «Certamente», disse il signor Xaver. «Tutti quelli che non lavorano eppure vivono lo stesso sono capitalisti». «E i mendicanti?» chiese mia madre. «Quelli non lavorano, ma non vanno nemmeno al Platter spizzi in fiacchere come lei, gentile signora», rispose il signor Xaver. Mia madre si voltò verso di me e disse «Giacobino». Credeva di aver parlato nel linguaggio dei possidenti, ma il signor Xaver capì, si volse e disse «Giacobino è mio figlio». Quindi fece schioccare la frusta. Era come se si fosse battuto le mani da solo per la sua cultura storica. Mia madre diventava di giorno in giorno più ingiusta, specialmente dal giorno in cui avevo messo l'ipoteca. Arti applicate, Elisabeth, la professoressa, capelli corti, ciechi, socialdemocratici, giacobini, ebrei, carne in scatola, carta moneta, titoli negoziati in borsa, mio suocero, tutte cose che erano oggetto del suo disprezzo e della sua animosità. Il nostro avvocato, il dottor Kinover, che era stato un amico di mio padre, venne chiamato per semplicità l'ebreo. La nostra cameriera era la Giacobina, il portiere era un sanculotto e la signora Yolan Satmari si chiamò semplicemente Ketskemet. Un nuovo personaggio fece la sua comparsa nella nostra vita, un certo Kurt von Stettenheim, arrivato direttamente dalla Marca di Brandeburgo e deciso ad ogni costo a diffondere le arti applicate nel mondo. Aveva l'aspetto di uno di quegli uomini che al giorno d'oggi vengono definiti di classe. Con questo termine si intende una mescolanza tra il campione internazionale di tennis e il proprietario terriero con paesaggio da stabilire e una leggera aria di oceano o di compagnia armatoriale. Uomini di questo tipo vengono dal Baltico, dalla Pomerania, perfino dalle lande del Lüneburg. Noi eravamo anche relativamente fortunati. Il nostro signor von Stettenheim veniva soltanto dalla Marca di Brandeburgo. Era grande e grosso, biondo e lentiginoso. Aveva l'inevitabile sfregio sulla fronte, il segno caratteristico dei prussiani, e portava il monocolo con così poca naturalezza che lo si poteva considerare ancora più naturale. Io stesso mi servo talvolta di un monocolo. Per comodità, sono troppo vanitoso per portare gli occhiali. Ci sono però facce della Pomerania, del Baltico, della Marca di Brandeburgo, sulle quali il monocolo dà l'impressione di essere un terzo occhio superfluo, non un aiuto per l'occhio vero, bensì la sua maschera di vetro. Quando il signor von Stattenheim si aggiustava il monocolo, assumeva la stessa espressione della professoressa Jolan Satmari quando accendeva una sigaretta. Quando il signor von Stattenheim parlava, o meglio, si accalorava, il marchio di Caino che aveva sulla fronte diventava rosso sangue e l'uomo si accalorava senza alcun bisogno. In sorprendente contrasto col suo fervore erano infatti le parole che lo esprimevano, come per esempio «Dunque posso assicurarle che rimasi davvero di stucco», oppure «Lo dico e lo ripeto, basta non disperare», o anche «Scommetto 10 contro 1 e le do la mia parola d'onore che è vero», e altre simili. Evidentemente a mio suocero non era bastata la nostra ipoteca. Il signor von Stattenheim promise di partecipare con una lauta somma all'atelier Elisabeth Trotta. Un paio di volte mio suocero ci fece incontrare. Alla fine, appunto in seguito all'ipoteca, egli mi aveva tirato dentro nell'affare delle arti applicate. Così dovette perlomeno presentarmi al nostro terzo socio. «Conosco un conte Trotta», esclamò il signor von Stattenheim dopo aver scambiato con me appena due frasi. «Lei si sbaglia», dissi. «Esistono solo dei baroni, Trotta, ammesso che siano ancora vivi». «Certo, mi rammento, era barone, il vecchio colonnello». «Lei si sbaglia ancora», dissi. «Mio zio è sottoprefetto». «Dolente», rispose il signor von Stattenheim, e lo sfregio sulla fronte avvampò. Il signor von Stettenheim ebbe l'idea di chiamare la nostra ditta Studio Jolan e con questo nome fu registrata. Tutte le volte che andavo in ufficio trovavo Elisabeth che disegnava con grande zelo. Disegnava cose incredibili, come per esempio stelle a 9 punte sulle facce di un ottaedro o una mano con 10 dita che doveva essere realizzata in agata e chiamarsi Benedizione di Krishnamurti. Oppure un toro rosso su fondo nero che si chiamava Api, una nave con 3 ordini di remi che fu chiamata Salamina e un braccialetto a forma di serpente di nome Cleopatra. Le idee erano della professoressa Jolan Satmari Era lei che le imponeva questi progetti. Per il resto, regnava fra noi due quella pericolosa cortesia convenzionale, sempre sul punto di esplodere nell'odio, sul cui fondo posava la nostra reciproca gelosia. Elizabeth mi amava, ne ero certo. Della professoressa Yolant aveva paura, una di quelle paure che la moderna medicina si studiava con successo di definire e senza successo di spiegare. Da che il signor von Stattenheim era entrato come terzo socio nel nostro studio Yolant, mio suocero e la professoressa mi consideravano un elemento di disturbo, un ostacolo sulla via delle arti applicate, una persona incapace di qualsiasi utile prestazione e in nessun caso degna di essere iniziata ai progetti artistici e commerciali della nostra ditta. Io ero semplicemente, tuttora, il marito di Elizabeth. Il signor von Stettenheim ideava prospetti in tutte le lingue del mondo e li spediva anche in tutte le parti del mondo. E quanto più scarse arrivavano le risposte, tanto più accanito si faceva il suo impegno. Arrivarono le tende nuove al seguito di due sedie giallo-limone, un divano giallo-limone a strisce nere, due lampade con paralumi di carta giapponese a forma esagonale e una carta geografica di pergamena, sulla quale furono segnati con degli spilli tutti i paesi e le città. Tutti, anche quelli con i quali la nostra ditta non aveva rapporti. Le sere che andavo a prendere Elizabeth non parlavamo né di Stettenheim né della professoressa Yolan Satmari, né delle arti applicate. Era un accordo tra di noi. Trascorrevamo dolci, intense notti di primavera. Non c'era dubbio. Elizabeth mi amava. Avevo pazienza. Aspettavo. Aspettavo il momento in cui lei, di sua iniziativa, mi avrebbe detto che voleva stare sempre e solo con me. Il nostro appartamento al pian terreno aspettava. Mia madre non mi chiedeva mai le intenzioni di Elizabeth. Di tanto in tanto lasciava cadere una frase come per esempio «Non appena sarete venuti a stare qui» oppure «Quando abiterete da me?» e così via. Alla fine dell'estate risultò che il nostro studio Yolant non fruttava assolutamente nulla. Per di più, mio suocero non aveva avuto fortuna con le altre frecce al suo arco. Aveva speculato sul marco con la mediazione del signor von Stettenheim. Il marco ribassò. Avrei dovuto mettere una seconda ipoteca, molto più elevata, sulla nostra casa. Parlai con mia madre? Non ne volle sapere. Lo raccontai a mio suocero. «Tu non sai fare, l'ho sempre saputo», disse. «Ci andrò da me». Andò da mia madre, ma non da solo, col signor von Stettenheim. Mia madre, alla quale gli estranei ispiravano paura e perfino orrore, mi pregò di aspettare. Così rimasi a casa.